Sì. Ok, niente, siamo qua, volevamo fare il collegamento con te un po' per sentire di prima mano cosa sta succedendo a Bogotà, cosa ci puoi raccontare di quello che sta succedendo negli ultimi giorni. Va bene, allora, così molto in poche parole, c'è stata l'insurrezione popolare dal 28 aprile, che è stato, quando è stato chiamato lo sciopero generale da diversi movimenti di base in tutta la Colombia. E diciamo che questa insurrezione è scoppiata per la riforma tributaria che prevedeva, cioè in realtà è molto complessa parlare della riforma tributaria. È quasi come cercare di capire la riforma della Costituzione che voleva fare il governo Renzi nel 2016. Ci vogliono tipo 55 tecnici professionisti per capirla in profondità. Però quello che abbiamo capito era che c'era un buco fiscale molto grosso che era stato creato dalla corruzione. Stiamo parlando di tipo 23 miliardi di euro. Per il 2021 e quindi la riforma tributaria cercava di coprire questo buco fiscale attraverso l'aggravazione dell'IVA, dell'imposizione dell'IVA nei beni di prima necessità, quindi le uova, la farina, eccetera, eccetera, eccetera. A questo si aggiunge che un'istituzione, la Colombia, ha fatto uno studio quest'anno dove diceva che nell'ultimo anno e mezzo, la povertà era salita del 40% in Colombia. Questo vuol dire che le famiglie che mangiavano due pasti al giorno un anno fa, ora ne mangiano uno, e che comunque il 40% delle persone, delle famiglie in Colombia mangia massimo due pasti al giorno. Quindi tutto questo sommato a delle dinamiche di governo che arrivano da tipo 20-30 anni fa, anche dei fatti storici che hanno portato all'indignazione popolare, eccetera, è scoppiata l'insurrezione. Bisogna anche dire, è molto importante, che sia il Cile come la Colombia sono stati i principali lavoratori per le politiche neoliberaliste fin dagli anni 90. Abbiamo visto come a Cile è successo quello che è successo, perché evidentemente le politiche neoliberali, quando colpiscono cioè, il sistema sanitario, il sistema educativo, il trasporto massivo per le grandi città, eccetera, cioè, non è sostenibile, quindi va sgretolandosi. Quello che abbiamo visto nella Colombia è che quello che magari sarebbe successo tra 7-8 anni, anche 10, con la pandemia si è velocizzato tantissimo finché è scoppiato. Quindi è importante questo concetto, dire che la riforma tributaria cioè non è stata il grande motivo, semplicemente è stato la goccia che ha fatto traboccare il bicchiere. Quindi sì, diciamo che questo è un contesto molto generale, se avete domande me le fate. Quindi poi cosa è successo? Tipo fin dal 2014, quando è stata proposta nel governo Santos la riforma agraria che prevedeva che in campagna los campesinos prendessero, comprassero i semi ogni anno al Monsantos. Questi semi erano semi che non fiorivano, quindi diciamo che ogni anno dovevano comprare questi semi, eccetera. Abbiamo iniziato a vedere una partecipazione che cresceva esponenzialmente dei ceti della popolazione alle manifestazioni. 20 anni fa manifestare era visto come, non lo so, la paura rossa, eccetera, eccetera, eccetera, un po' quello che succede ancora in Italia, no? Invece negli ultimi 20 anni qua in Colombia, più che altro a partire dal 2014, cioè la partecipazione è salita un sacco. Vediamo un primo scoppio sociale nel 2019, però che è andato ad attenuarsi per la pandemia, quello che è successo un po' in tutto il mondo, in Iraq, in Cile, eccetera. Succede anche qui in Colombia. E ora invece diciamo che questa insurrezione popolare va avanti ormai da quasi 21 giorni, fortissima. Quindi è interessante anche capire come mai. Uno dei motivi è per quello che vi spiegavo. Diciamo perché ormai la Colombia c'ha una storia, cioè una storia ma da, boh, da 500 anni fa, 600, che ce la portiamo avanti tuttora. E E a questo si deve dire che c'è una grande scissione generazionale. Diciamo che le persone che ora tra i 20 e i 30 anni che siamo cresciuti con il conflitto armato, con la guerra civile più grande della Colombia e più grande del mondo, che abbiamo visto anche un processo di pace che da un punto di vista è stato, diciamo, una vittoria storica, da un altro punto di vista invece non è stato un percorso di pace in realtà, perché in Campania ancora non ci sono le garanzie per chi vive nel territorio. Dal 2016 che è stato firmato questo trattato di pace ci sono stati circa 1000 tra leader e leaderesse sociali che difendono il territorio ammazzati e 300 partecipanti alle ex FARC. Quindi insomma anche questo è un discorso un po' spinoso. Il fatto sta che questa generazione con questo processo di pace ha avuto, diciamo, un'esperanza, no? Come tipo possiamo costruire un paese molto più equitativo, molto più sociale, dove i grossi crimini di Stato vengano visibilizzati, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, per l'appunto, questa nuova generazione sono i giovani che stanno mettendo la loro, cioè, che stanno dando il loro corpo, la loro integrità fisica e psicologica oggi nelle strade per portare avanti questo cambiamento. Noi non ci fidiamo più dello Stato, magari come le generazioni passate, che si riusciva a trovare una conciliazione in questi momenti di tensione, no? E la gioventù in questo momento non si sa molto bene cosa si vuole, nel senso che siccome c'è così tanta gente manifestando, non c'è un fronte unito che rivendica una serie di necessità. Vabbè, forse sto andando troppo avanti, se volete farmi delle domande, interrompermi, fate pure. Qualcuno vuole fare delle domande? Allora, una domanda è cosa sta succedendo tra ieri e oggi, dopo che ci sono state delle dichiarazioni del presidente, insomma, come sono gli ultimi giorni là? Allora, gli ultimi giorni come sono? Diciamo che in questi ultimi giorni è cascata la riforma alla salute 010, che prevedeva un modello sanitario ancora più simile a quello americano, quindi poche aziende molto grandi che gestiscono la sanità in Colombia, aziende private, no? Poi il presidente cosa ha detto? Ha detto che c'è bisogno di militarizzare ancora di più, che non ci sarà dialogo con i famosi vandalos, quindi con la gente che è per la strada, c'è sempre con lo stesso discorso di disinformazione, dicendo che la protesta è delegittimizzata per la violenza che c'è nelle strade, eccetera, dando colpa a chi è nella strada, invece di dare colpa alla celere, alla polizia, che sono quelli che arrivano brutalmente a dissipare la manifestazione con la violenza. Quindi cosa succede? Negli ultimi giorni c'è una partecipazione ancora più decisa da parte dei cittadini e le cittadine. Quindi è cascata la riforma alla salute, che era una cosa molto importante, ma anche per esempio a Cali, che è la zona più colpita, il generale e la polizia nazionale ha dato le dimissioni. Si parla, per diciamo fonti attendibili di gente che conosciamo, che lavora nelle istituzioni, che la polizia è stanca, cioè che sono sotto una pressione non soltanto dal punto di vista fisico, eccetera, che non dormono, eccetera, ma cioè stanca che ovviamente la gente gli dica che sono degli assassini, stupratori, eccetera, e quindi ci sono anche, diciamo, persone appartenenti alle forze dell'ordine che stanno dando le dimissioni. Diciamo che questo è gli ultimi aggiornamenti, e la repressione sta crescendo ancora di più, diciamo che sta diventando ancora più violenta, con un numero ancora più grosso di presenza di polizia, SMAD, SMAD sarebbe l'accelere, ma anche GOES, che sarebbero i servizi speciali, esercito. Comunque nelle grandi città, Bogotà, Medellin, non si vede, cioè non succede ciò che succede magari in dei posti più piccoli come Pereira e nei quartieri popolari di Cali, per esempio, che proprio lì c'è un massacro, ma anche perché c'è una gestione del conflitto molto territoriale, quindi molto del quartiere, molto interessante. E, sì, questo per rispondere un po' alla domanda. Mi chiedono se adesso il Cauca è militarizzato data la presenza della Minga. Allora, beh, il Cauca è abbastanza grande, no, come regione. Cioè, Cali è totalmente militarizzata. C'è stata la Minga a Cali, e c'è stato un attentato contro la Minga, e bisogna capire un po' chi è stato, ma ci sono dei video che fanno vedere dei civili con armi di fuoco in queste grosse Jeep o Toyota, bianche con vetri oscuri, sparando contro la folla. Hanno fatto, cioè hanno ferito 8 indigeni. Dopodiché, cioè, la Minga è arrivata principalmente a Cali a supportare la diciamo, la sollevazione popolare. Sono stati accolti all'Università del Valle, ma dopo qualche giorno sono andati via, comunque a fare resistenza fuori il capoluogo. Comunque a Cali c'è un'altra comunità indigena, che sono i Misak, che stanno supportando anche loro, attraverso le loro metodologie, la protesta sociale. Diciamo che il potere, cioè lo Stato colombiano, ha una paura fortissima alla Minga e a tutto il percorso che hanno fatto il popolo Nasa, perché c'è, diciamo, un popolo millenario che porta avanti una lotta di autodeterminazione, autonomia, anche al punto legislativa e territoriale, che ha avuto diverse vittorie negli anni. E, prima di tutto, secondo di tutto, perché loro hanno un tipo di gestione anche del conflitto che parte dal principio che la vita è sagrata e sacra, quindi c'è l'idea di non far male a nessuno, ma non per quello non si difendono, e allo Stato gli fa un sacco paura questo tipo di manifestazione pacifica, perché attraverso la manifestazione pacifica non hanno, diciamo, dal punto di vista legale la possibilità di agire, anche se poi lo fanno. E poi il terzo è perché la gestione in generale del popolo Nasa, di come si gestiscono per fare diverse cose attraverso il principio della Minga, che la Minga significa il lavoro collettivo per qualsiasi cosa. Quindi loro chiamano Minga per andare a coltivare, cioè a coltivare i campi, chiamano Minga per aiutare a fare le case alla comunità, ma chiamano anche la Minga per la protesta sociale. E questo, cioè, dietro a questa gestione collettiva attraverso il principio della Minga c'è tutta, per l'appunto, una gestione di solidarietà e collaborativa che fa molto efficiente le cose che fanno. Mi chiedono se sai cosa pensa il governo dalle dichiarazioni che ha fatto l'ambasciatrice qua a Roma, e nella quale quello che diceva era che non c'era in verità una grave situazione di crisi, e che sì, cioè, insomma, non ha, diciamo, riconosciuto la crisi umanitaria, ma anzi è stata sulla linea di quelle che erano anche le dichiarazioni dei media, che la protesta era portata avanti da vandali, infiltrati, eccetera eccetera. Cioè, la questione è che il rapporto tra la Colombia e l'Italia è molto forte, dal punto di vista che, per esempio, il 25% della produzione delle banane la compra l'Italia, il 25% delle risorse di idrocarburi la compra l'Italia. Cioè, dal punto di vista economico, la Colombia e l'Italia hanno degli interessi molto forti, e comunque non gli conviene alla Colombia far vedere che in questo momento c'è un casino molto forte nel proprio paese, perché questo vuol dire andare a colpire l'inversione straniera e accentuare ancora di più la crisi, che era un po' quello che si sta cercando di fare attraverso le iniziative di informazione, quindi boicottare prodotti colombiani, eccetera, per fare ancora più pressione al governo colombiano. Chiedono anche se secondo te si sta sentendo la pressione internazionale che si sta facendo, diciamo, da quando è iniziato lo sciopero, come si sente là, se insomma, questo. Beh, questo è un discorso complesso, perché cioè, noi possiamo diciamo, vederlo da un punto di vista più esterno, ma non capiamo in realtà in profondità le dinamiche che ci sono tra, cioè, dal punto di vista diplomatico tra le diverse nazioni, no? Quello che sì possiamo dire è che con la tecnologia di oggi si stanno facendo un sacco di... Cioè, diciamo che la pressione più forte ce l'ha la polizia, perché il giorno la gente ha i telefoni, c'è la luce, quindi si registrano le cose, e questo dal punto di vista di ONG eccetera internazionali si fa una certa pressione. È per questo che la notte è il momento nel quale avvengono le massacri più pese, per quello che nei quartieri popolari tipo a Cali, ma anche a Medellin e a Bogotà è successo che il comune leva la luce in certi settori popolari per far entrare l'esercito e la SMA della polizia a sparare, a far terrore, no? Proprio terrorismo di Stato, così come è stato a Cile. E quindi sì, c'è una pressione internazionale, però insomma, comunque la polizia continua a comportarsi come si comporta. E l'ONU, c'è stata una missione dell'ONU che è entrata a Cali, ma è stata, cioè, gli hanno sparato proprio alla macchina, sono dovuti andare via, e a Cali, in uno dei punti dove c'è più resistenza, è arrivato tipo un giornalista tedesco, mi sa, se non sbaglio, e la gente chiedeva che per favore non andasse via, perché se lui non andava via la polizia non sparava. Quando lui andava via la polizia faceva quello che gli pareva. Quindi da questo punto di vista sì, c'è una pressione internazionale, però questo, diciamo, non fa sì che smettano di esserci omicidi, torture, violenze psicologiche, stupri. Io ti volevo chiedere riguardo a le detenzioni, diciamo, clandestine che si stanno facendo, che abbiamo saputo appunto che prelevano ragazzi dalle manifestazioni e li portano non si sa dove, vengono detenuti. Sai dirci qualcosa riguardo questa cosa? So che per esempio due ragazzi, non mi ricordo esattamente, che erano stati desaparecidos il 28 aprile, quindi il primo giorno di manifestazioni, nel Valle del Cauca. Qualche giorno fa sono stati trovati senza vita lungo il fiume del Cauca. E so che per esempio qui a Bogotà, vicino al Portal de las Américas, che è un punto climax del conflitto sociale, perché si sta generando uno spazio umanitario di autogovernanza, diciamo, il Portal de las Américas è nel sud-occidente di Bogotà, quindi diciamo dove ci sono tutti i quartieri più popolari. Ecco, là, siccome c'è questa forte sollevazione popolare attraverso l'autoorganizzazione, dinamiche di autogestione, eccetera, eccetera, eccetera, c'è un sacco di repressione, e si sa che alcuni ragazzi e ragazze che sono state prese dalla polizia sono stati portati dentro il portal o in caserma, picchiati, buttati, cioè rinchiusi in delle stanze col gas. E per esempio ieri ci sono stati in questi due punti di pronto soccorso autogestito, ci sono state 70 feriti, 6 con perdita di un occhio, uno con perdita della vista totale e uno stupro. Quindi diciamo che succede un sacco questo. Poco fa è stato trovato, cioè ci hanno volantinato in una delle piazze di Bogotà, mentre eravamo in sciopero, un volantinaggio, perché attraverso le, diciamo, Facebook, eccetera, questa informazione veniva censurata, che hanno trovato un camion con delle corde, con dei capelli umani, con della sangue secca, dove venivano fatte queste torture. Quindi succede un botto la notte, quando prendono, cioè più che altro la notte, quando la polizia approfitta a prendere le persone quando stanno tornando a casa, perché comunque la, diciamo che la manifestazione è ben organizzata, finché siamo tutti insieme, diciamo, si può attenuare questi pericoli, però per l'appunto approfittano quando le persone stanno tornando a casa la notte, nei quartieri, per, insomma, per prendere chi c'è. Giampa, mi chiedono se si inizia a intravedere un'identità comune tra tutti i manifestanti che possa portare avanti un programma. Sì, dice, anche questa domanda è un po' complessa, perché come vi spiegavo prima c'è una partecipazione molto grossa alle manifestazioni, ma a pari passo c'è anche una grande diversità. Comunque sia, passando i giorni si sta costituendo un fronte unitario più grande, però è importante capire che questo fronte unitario finalmente, perché cioè, a questo dal mio punto di vista, si sta costituendo attraverso una piccola scala. Quindi ci sono, attraverso questa, diciamo, questa organizzazione di quartiere, del conflitto, eccetera, si stanno facendo delle assemblee che finiscono per settore, quali sono le rivendicazioni per portare avanti, che è molto più sensato dal punto di vista di un'organizzazione, cioè molto più a grande scala. Quindi c'è un comitè istituzionale del paro, noi giovani comunque che siamo nelle strade non ci sentiamo rappresentati da loro, perché comunque la politica lassù che sta nel palazzo, invece i morti li mette la gente che scende per la strada, e quindi non ci rappresenta, però per l'appunto, diciamo, questo movimento più unitario c'è, ma attraverso una scala molto più bassa, locale e di quartiere. Comunque ci sono dei punti che si, diciamo, il grosso della popolazione che è nelle strade condivide, che è quello di fare una riforma alla Polizia Nazionale, elevare i poteri che ha acquisito negli ultimi 20 anni, che sono tantissimi. Si chiede che lo Stato evidentemente risponda per il massacro, quindi per gli assassinati e per le torture, per, diciamo, tutti i colpi nei confronti dei diritti umani. E poi ci sono altre proposte che però sono un po' che vanno cambiando attraverso, diciamo, i gruppi, eccetera. Non è ancora molto chiaro questa cosa. Cosa ne pensi del paro judicial y si eso no perjudica más al país, a la ¿Cómo así el paro comunidad? judicial? ¿En qué senso el paro judicial? Que me dicen ¿Cómo así? que el ramo judicial quiere hacer un paro para pues bloquear el gobierno. Pues, bueno, complejo. È complesso perché, allora, dal punto di vista di giustizia istituzionale, la polizia, le forze dell'ordine, tutta la parte militare non è sotto la giustizia ordinaria, ma è sotto la giustizia militare. Quindi, cioè, da questo punto di vista, diciamo che non è che, cioè, questo è importante tenerlo conto. E poi dal mio punto di vista non lo so perché non sapevo questa cosa e non ho gli strumenti in questo momento per dare una risposta consapevole, dovrei rifletterci un po'. Sicuramente se c'è il paro giudiziale, cioè, può essere un po' peso, no? Insomma, però non, in questo momento non sono in grado di darvi una risposta e opportune. Ok, Giampa, creo que ya no hay más preguntas, quindi grazie mille, ti salutiamo, grazie ancora di averci parlato. E...